Italia in controluce. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchiesi. Oggi è il 1° giugno, questa è la seconda edizione di Italia in controluce. Dopo la vittoria alle elezioni amministrative, come sarà la Milano disegnata dal nuovo sindaco Giuliano Pisapia? I reportage di Raffaella Calandra. L'inno della nuova Milano l'hanno diffuso gli altoparlanti di Piazza Duomo. Prima l'appartenenza, che non è un insieme casuale di persone. Poi la libertà, che è partecipazione, come cantava Giorgio Gaber. E sia l'una che l'altra saranno sfide cruciali per il neo sindaco. Il vento nuovo promesso da Giuliano Pisapia si porta dietro infatti un'annunciata diversa idea di città che ora, smaltita l'euforia della festa arancione e passate le cerimonie di insediamento, il sindaco dovrà far nascere subito, perché le scadenze sono dietro l'angolo e la posta in gioco altissima, a cominciare dall'Expo. Se non è un mistero per nessuno che il nuovo primo cittadino ambisca ad una manifestazione con più ecologia e meno cemento, il centro-sinistra tende la mano al sindaco uscente, a attuale commissario straordinario per l'Expo. Pronti a collaborare, dice a Radio 24 Stefano Boeri, l'archistar capolista PD in consiglio, che dovrebbe avere un ruolo di peso nel prossimo esecutivo cittadino. Più agroalimentare, il rischio che questo si trasformi in un supermercato del cibo che è enorme, anche perché sarebbe un flop economico e anche un flop d'immagine per tutto il paese. La prossima verifica non vi spaventa? No, assolutamente. Io credo che ci siano le risorse, le persone, l'intelligenza, e anche la possibilità di collaborare con chi gestisce oggi l'Expo per poterlo rilanciare. Oggi commissario straordinario dell'Expo è Letizia Moratti, secondo lei resterà? È una scelta della Presidenza del Consiglio, il problema non sono gli uomini. Quindi se restasse, voi pronti a collaborare anche con la Moratti, commissario per l'Expo? Noi siamo pronti a collaborare con chiunque condivida un progetto che appunto va al di là delle carriere personali. Il 14 giugno una verifica attende Milano al BIE di Parigi e già poche ore dopo la sua elezione al nuovo sindaco è stato illustrato il provvedimento con cui la regione ha dato il via libera alla costituzione di Are Expo, la società che dovrà acquisire le aree per l'esposizione del 2015. Nodo spinoso dell'era Moratti, come per la nuova giunta lo sarà anche il tentativo di tenere insieme un'anima ambientalista con i 1000 cantieri aperti e gli avveniristici grattacieli che prendono forma. Ed è un lavoro da mediano, infatti, quello che Boeri sta già facendo pure sul piano del governo del territorio, finora targato Masseroli, l'ex assessore Ciellino all'urbanistica. 14 miliardi di volume economico e un impegno che rischia di dividere la coalizione. All'assemblea dei costruttori l'architetto, col pieno di preferenze, ha dato questo messaggio. Faremo in tempi molto rapidi una revisione, ma senza in nessun modo bloccare una città che aspetta da più di 20 anni un piano regolatore. Quindi dobbiamo rapidamente ridare un'impostazione che poi significa dire cosa si vuol fare a Milano nei prossimi 20 anni, cosa che questo piano peraltro non fa. Quindi conservare il vecchio PGT con integrazioni all'insegna di... Innanzitutto vedere Milano non come una cittadella chiusa nei confini comunali, ma come una grande metropoli. Poi bisogna vedere Milano per quello che davvero è, ed è una città che in gran parte è vuota, migliaia di appartamenti vuoti, migliaia di uffici vuoti, migliaia di negozi vuoti, e ridurre al minimo tutto ciò che può comportare consumo di agricoltura o di spazi naturali. Nella città che Pisapia prospetta, meno cara e più vicina ai suoi abitanti, si imporrà da subito anche una scelta sull'Ecopass, il pedaggio introdotto dall'amministrazione Moratti, divenuta bandiera polemica in campagna elettorale e ora prossimo al referendum popolare del 12 e 13 giugno. Decideremo sulla base di quel risultato e del comitato dei saggi, conferma Maurizio Baruffi, portavoce fino ad ora di Pisapia, dopo un passato da consigliere verde a Palazzo Marino. Mettere a fine le indicazioni del referendum e il parere del comitato dei saggi saranno i due elementi che ci porteranno poi a delle scelte. Delle scelte che realisticamente potrebbero essere prese già in autunno? Credo che sia necessario arrivare all'autunno con un piano molto chiaro e forte. Rispetto alla percentuale di piste ciclabili, un obiettivo che vi siete già più o meno dati oppure ancora no? No, non abbiamo ancora quantificato con precisione. Quello che è evidente è che Milano è una città che è destinata a sempre più a favorire la mobilità sostenibile. Anche lui sembra destinato ad avere un ruolo di peso nel futuro esecutivo targato Pisapia e rimodellato nei numeri, con gli assessori che per legge da 16 passano a 12, come nell'organigramma che così lo stesso sindaco aveva illustrato prima del ballottaggio. Sarà suddivisa l'amministrazione della città in tre grandi aree, macro aree, sono macro aree che raccoglie tutte le competenze istituzionali, macroarea che raccoglie tutte le competenze economiche, macroarea che raccoglie tutte le competenze sociali. Il sindaco avrà dei delegati, il delegato ai cittadini, un delegato al sistema delle imprese e al mondo del lavoro, terzo delegato è un delegato ai rapporti con la diocesi e con tutte le religioni praticate a Milano. In queste caselle Pisapia terrà dentro le promesse di una squadra che giovane, competente e all'insegna del rosa, ma ovviamente anche le necessità di un equilibrio politico tra le varie anime che l'hanno sostenuto. Tra queste parte del riformismo meneghino, ma anche la SEL di Nichi Vendola. A lavorare a Palazzo Marino dovrebbe esserci la capolista a Milano, Daniela Benelli, che ora punta l'attenzione su municipalità, web e periferie, all'insegna dell'inclusione e dell'impegno condiviso con realtà come Curia e la casa di Don Colmegna. L'area metropolitana si può fare soltanto se la città di Milano si riorganizza in municipi. Periferie, altro sì. Grande tema. Quali saranno le parole d'ordine di queste periferie? Prima di tutto è non abbandonarle a se stesse e cercare di fare dei seri interventi di riqualificazione urbana. Però questo non basterà. Questi quartieri hanno bisogno prima di tutto di riacquistare un'identità. Via Padova può diventare modello oppure è un altro tipo, diciamo, di ricetta e di immagine che la vostra futura amministrazione porterà avanti? Si è studiato qual era il problema di quel quartiere e si è intervenuti sul problema del quartiere e naturalmente non è che dappertutto si riproduce lo stesso problema. Ci sono alcune periferie che anche negli ultimi tempi hanno risentito di alcuni grandi fatti come sgomberi. Il problema è naturalmente di azzerare tutte queste situazioni, ma l'azzeramento va fatto con umanità. O c'è l'accompagnamento nel loro paese oppure c'è dare delle soluzioni abitative più decorose. Ha parlato della città dell'accoglienza Pisapia nelle sue prime parole da sindaco, prospettando una rivoluzione come la marcia del sale di Gandhi. Città dell'accoglienza e di chi lavora con onestà, ha detto. La legalità, infatti, è un altro pilastro della nuova era che concretamente il nuovo sindaco vuole tradurre in una commissione in comune sulle infiltrazioni mafiose, come fu quella pre-Tangentopoli di Carlos Muraglia, attuale presidente dell'ANPI. Abbiamo cercato di sensibilizzare i cittadini nella convinzione che quella della legalità non è una cosa che si può lasciare soltanto alla giustizia, dovrebbe essere un problema a cui tutti concorrono. E se quindi si parla della presenza della mafia a Milano e se ne ricercano gli indizi, si fa un'opera di sensibilizzazione oltre che di cognizione. Un osservatorio è un modo di coinvolgimento dei cittadini nella ricerca dei segni che possono indicare che la legalità può essere in pericolo in un certo momento. L'attenzione dei cittadini, delle banche, degli uffici, degli enti locali su questo tema è di estrema importanza. Bella ciao ha accolto Smuraglia sul palco di Piazza Duomo, dove prima si erano diffuse le note della più classica delle canzoni meneghine, l'inno ad una città laboriosa, sobria e poi riformista. E il voto di quell'aria ha pesato sull'esito finale, come nota Carlo Tognoli, già sindaco socialista di Milano. Pisapia si è più volte richiamato alla tradizione dei socialisti riformisti e dei sindaci socialisti di Milano, anche se devo dire che pure la Moratti si è richiamata a Greppi. Non bisogna dimenticare però che la coalizione di Pisapia comprende anche gruppi che sono un po' massimalisti e potrebbero dare una colorazione non riformista. Il titolo del suo ultimo libro, La cultura come terapia, volendo, diciamo, applicare il titolo del suo libro al momento attuale. Posso dire una cosa? Io farei un assessore all'educazione popolare che si occupi anche dell'istruzione per ciò che riguarda i nuovi linguaggi. E anche l'attuale amministrazione, avvalendosi di scelte precedenti, ha fatto anche delle buone iniziative. Certo non c'è stato un programma organico e una continuità. E invece in questo campo quello che conta è la continuità. Il comune può fare, ma poi deve avere il legame con quelli che producono cultura spontaneamente nella città. Noi cosa facciamo lì? Ci limitiamo a dargli questa realtà e semmai andarle a scovare. Questo bisognerebbe fare, perché poi ci pensano loro a fare cultura, anzi la fanno forse anche meglio, perché la cultura dirigista, cioè diretta dal comune, poi dopo c'è anche qualche piccolo difettuccio. Finiti dunque i festeggiamenti per il nuovo sindaco di centrosinistra. Dopo 18 anni sarà subito tempo di decisioni e di impegni. Titadora e Piscinina, Tite Domine Milano. Seconda edizione Italia in Controluce termina qui. Siamo su Facebook, Twitter, siamo anche raggiungibili via mail controluceradio24.it. Torniamo domani 2 giugno 6:30 su Radio 24 con nuove storie.